Il topo e l'ostrica, da favole, di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Un topo, contadin grillincervello, della sua vita malcontento e sazio, lasciò cavoli e rape, ed un più bello luogo cercando e più libero spazio. Non era ancor dal buco ito 2 miglia, che va di meraviglia in meraviglia. Di qua l'Alpi e di là ve l'Appennino, ogni mucchio di terra è una montagna, e dopo un altro giorno di cammino arriva dove in mare il sol si bagna. Qui, vedendo dell'ostriche, credette sulle prime che fossero barchette. «Oh, che bel mondo!» esclama. «Oh, babbo mio, che non uscisti mai dalla tua tana! Il mare ed il deserto ho visto anch'io, con gli occhi, e non per gioco di Morgana, e che fa veder le cose entro uno specchio, siccome ho letto sopra un libro vecchio». Il topo, rosicchiando in libreria, se non era un grandissimo sapiente, qualche nozione di geografia gli si era pure appiccicata al dente. Vide dunque quell'ostriche e credette sulle prime che fossero barchette. Fra le quali, o lettor, ve n'era alcuna che al dolce soffio respirando apriva le labbra, belle bianche e grassa, ed una così chiotta e mirabile attrattiva, che il topo disse: «Se non mangio questa, che cosa di mangiar più mi resta?» E subito si fece un grosso conto, e quando il nicchio un poco si avvicina, il topo allunga lo zampino pronto, ma su più bello l'ostrica barbina il guscio abbassa, e pria che gli tragga il collo, come dentro una trappola serrollo. Dimostra queste storie, in primo loco, che chi non ha del mondo conoscenza va facilmente in estasi per poco, e facilmente crede all'apparenza, poi si rivolge a quei matricolati che credono di suonare e son suonati. Fine della favola Il topo e l'ostrica. Questa registrazione è di dominio pubblico.